alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Dalla piazza dei Mercanti la Marmaglia insaccò per quell'altr'arco nella via dei Fustagnai e di lì si sparpagliò nel Cordusio. Ognuno, al primo sboccarvi, guardava subito verso il forno che era stato indicato. Ma invece della moltitudine d'amici che si aspettavano di trovar lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene come esitando a qualche distanza della bottega, la quale era chiusa e alle finestre gente armata in atto di star pronti a difendersi. A quella vista chi si meravigliava, chi sagrava, chi rideva, chi si voltava per informar quelli che arrivavano via via, chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva avanti, avanti. C'era un incalzare e un rattenere come un ristagno, una titubazione, un ronzio confuso di contrasti e di consulte. In questa scoppiò in mezzo alla folla una maledetta voce. «C'è qui! Vicino la casa del vicario di provvisione! Andiamo a far giustizia e a dare il sacco!» Parve il rammentarsi comune d'un concerto preso, piuttosto che l'accettazione di una proposta. «Dal vicario! Dal vicario!» è il solo grido che si possa sentire. La turba si muove, tutta insieme, verso la strada dov'era la casa nominata in un così cattivo punto. Lo sventurato vicario stava, in quel momento, facendo un chilo agro e stentato d'un desinare biascicato senza appetito e senza pan fresco, e attendeva con gran sospensione come avesse a finire quella burrasca, lontano però dal sospettar che dovesse cadere così spaventosamente addosso a lui. Qualche galantuomo percorse di galoppo la folla per avvertirlo di quel che gli sovrastava. I servitori, attirati già dal rumore sulla porta, guardavano sgomentati lungo la strada dalla parte donde il rumore veniva avvicinandosi. Mentre ascoltano l'avviso vedono comparire l'avanguardia. In fretta e furia si porta l'avviso al padrone. Mentre questo pensa a fuggire e come fuggire, un altro viene a dirgli che non è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che basti per chiudere la porta. Mettono la stanga, mettono i puntelli, corrono a chiudere le finestre come quando si vede venire avanti un tempo nero e si aspetta la grandine da un momento all'altro. L'urlio crescente, scendendo dall'alto come un tuono, rimbomba nel vuoto cortile. Ogni buco della casa ne rintrona e di mezzo al vasto e confuso strepito si sentono forti e fitti colpi di pietre alla porta. «Il vicario! Il tiranno! L'affamatore! Lo vogliamo! Vivo o morto!» Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio e ai suoi servitori che tenessero fermo, che trovassero la maniera di farlo scappare. Ma come? E di dove? Salì in soffitta. Da un pertugio guardò ansiosamente nella strada e la vide piena zeppa di furibondi. Sentì le voci che chiedevano la sua morte. E più smarrito che mai, si ritirò e andò a cercare il più sicuro e riposto nascondiglio. Lì, rannicchiato, stava attento, attento, se mai il funesto rumore s'affievolisse, se il tumulto s'acquietasse un poco, ma sentendo invece il muggito alzarsi più feroce, più rumoroso e raddoppiare i picchi, preso da nuovo soprassalto al cuore, si turava gli orecchi in fretta. Poi, come fuori di sé, stringendo i denti e raggrinzando il viso, stendeva le braccia e puntava i pugni come se volesse tener ferma la porta. Del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere, già che era solo, e la storia è costretta a indovinare. Fortuna che ci avvezza. Lorenzo questa volta si trovava nel forte del tumulto, non già portatovi dalla piena, ma cacciatovisi deliberatamente. A quella prima proposta di sangue aveva sentito il suo rimescolarsi tutto, in quanto al saccheggio non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso, ma l'idea dell'omicidio gli cagionò un orrore pretto e immediato. E quantunque per quella funesta docilità degli animi appassionati all'affermare appassionato di molti fosse persuasissimo che il vicario era la cagion principale della fame, il nemico dei poveri, pure avendo al primo muoversi della turba sentita a caso qualche parola che indicava la volontà di fare ogni sforzo per salvarlo, si era subito proposto d'aiutare anche lui un'opera tale. E con questa intenzione si era cacciato quasi fino a quella porta che veniva travagliata in 100 modi. Chi con ciottoli picchiava su chiodi della serratura per insconficcarla, altri con pali e scarpelli e martelli cercavano di lavorar più di regola, altri poi con pietre, con coltelli spuntati, con chiodi, con bastoni, con l'unghie, non avendo altro, scalcinavano e sgretolavano il muro e si ingegnavano di levare i mattoni e fare una breccia. Quelli che non potevano aiutare facevano coraggio con gli urli, ma nello stesso tempo con lo star lì a pigiare impicciavano di più il lavoro già impicciato dalla gara disordinata dei lavoranti. Giacché, per grazia del cielo, accade talvolta anche nel male quella cosa troppo frequente nel bene, che i fautori più ardenti divengano un impedimento. I magistrati, che ebbero i primi l'avviso di quel che accadeva, spedirono subito a chieder soccorso al comandante del castello, che allora si diceva di Porta Giovia, il quale mandò alcuni soldati, ma tra l'avviso e l'ordine e il radunarsi e il mettersi in cammino e il cammino, essi arrivarono che la casa era già cinta di vasto assedio e fecero alto lontano da quella, all'estremità della folla. L'ufficiale che li comandava non sapeva che partito prendere. Lì non era altro che una, lasciatemi dire, accozzaglia di gente varia d'età e di sesso che stava a vedere. Alle intimidazioni che gli venivano fatte di sbandarsi e di dar luogo rispondevano con un cupo e lungo mormorio. Nessuno si muoveva. L'irresolutezza del comandante e l'immobilità dei soldati parve a dritto a torto paura. La gente che si trovava vicino a loro si contentavano di guardargli in viso con un'aria, come si dice, di menempipo. Quelli che erano un po' più lontani non se ne stavano di provocarli con visacci e con grida di scherno. Più in là, pochi sapevano, si curavano che ci fossero. I guastatori seguitavano a smurare, senz'altro pensiero che di riuscir presto nell'impresa. Gli spettatori non cessavano d'animarla con gli urli. Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio malvissuto che, spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro granchiodi, con che diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse. «Oi, boh, vergogna!» scappò fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di tanti altri visi che davano segno d'approvarle. E incoraggito dal vederne degli altri, sui quali, benché muti, traspariva lo stesso orrore del quale era compreso lui. «Vergogna! Vogliamo noi rubare il mestiere al boia? Assassinare un cristiano? Come volete che Dio ci dia del pane se facciamo di queste atrocità? Ci manderà dei fulmini e non del pane!» «Ah, cane! Ah, traditor della patria!» gridò voltandosi a Renzo con un viso da indemoniato, un di coloro che avevano potuto sentire tra il frastuono quelle sante parole. «Aspetta, aspetta! È un servitore del vicario, travestito da contadino! È una spia! Dalli, dalli!» 100 voci si spargono all'intorno. «Cos'è? Dov'è? Chi è? Un servitore del vicario! Una spia! Il vicario travestito da contadino che scappa! Dov'è? Dov'è? Dalli, dalli! Renzo ammutolisce, diventa piccino piccino, vorrebbe sparire. Alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo e con alte diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide. Ma ciò che più di tutto lo servì fu un largo, largo! Che si sentì gridarli vicino. Largo, è qui l'aiuto! Largo, Cos'era? Era una lunga scala a mano che alcuni portavano per appoggiarla alla casa e entrarci da una finestra. Ma per buona sorte quel mezzo, che avrebbe resa la cosa facile, non era facile esso a mettere in opera. I portatori, all'una e all'altra cima e di qua di là della macchina, urtati, scompigliati, divisi dalla calca, andavano a onde, uno con la testa tra due scalini e gli staggi sulle spalle, oppresso come sotto il giogo scosso mugghiava. Un altro veniva staccato dal carico con una spinta. La scala, abbandonata, picchiava spalle, braccia, costole. Pensate cosa dovevano dir coloro dei quali erano. Altri sollevano con le mani il peso morto, vi si cacciano sotto, se lo mettono addosso gridando «Animo, andiamo!» La macchina fatale s'avanza balzelloni e serpeggiando. Arrivò a tempo a distrarre e a disordinare i nemici di Renzo, il quale profittò della confusione nata nella confusione e quatto quatto sul principio, poi giocando di gomita a più non posso, s'allontanò da quel luogo dove non c'era buon'aria per lui, con l'intenzione anche d'uscire più presto che potesse dal tumulto ed andar davvero a trovare o aspettare il padre Bonaventura. Tutto a un tratto un movimento straordinario cominciato a un'estremità si propaga per la folla. Una voce si sparge, viene avanti di bocca in bocca. Ferrer! Ferrer! Una meraviglia, una gioia, una rabbia, un'inclinazione, una ripugnanza scoppiano per tutto dove arriva quel nome. Chi lo grida? Chi vuol soffogarlo? Chi afferma, chi nega, chi benedice, chi bestemmia. E qui Ferrer! Non è vero! Non è vero! Sì, sì, viva Ferrer! Quello che ha messo il pane a buon mercato! No, no! È qui? È qui in carrozza? Cosa importa? Che c'entra lui? Non vogliamo nessuno! Ferrer! Viva Ferrer, l'amico della povera gente! Viene per condurre in prigione il vicario! No, no! Vogliamo far giustizia noi, indietro, indietro! Sì, sì, Ferrer! Venga, venga Ferrer! In prigione il vicario! E tutti, alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde s'annunziava l'inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se si fossero stati tutti con le piante in terra. Ma tant'è, tutti si alzavano. Infatti, all'estremità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati, era arrivato in carrozza Antonio Ferrer, il gran cancelliere, il quale, rimordendogli probabilmente la coscienza d'essere coi suoi spropositi e con la sua ostinazione stato causa o almeno occasione di quella sommossa, veniva ora a cercar d'acquietarla ed impedirne almeno il più terribile e irreparabile effetto. Veniva a spender bene una popolarità mal acquistata. Nei tumulti popolari c'è sempre un certo numero d'uomini che, o per un riscaldamento di passione, o per una persuasione fanatica, o per un disegno scellerato, o per un maledetto gusto del soqquadro, fanno di tutto per rispingere le cose al peggio. Propongono o promuovono i più spietati consigli, soffiano nel fuoco ogni volta che principia a illanguidire, Non è mai troppo per costoro. Non vorrebbero che il tumulto avesse né fine né misura. Ma per contrappeso c'è sempre anche un certo numero d'altri uomini che, con pari ardore e con insistenza pari, s'adoprano per produrre l'effetto contrario. Taluni mossi da amicizia o da parzialità per le persone minacciate, altri senz'altro impulso che d'un pio e spontaneo orrore del sangue e dei fatti atroci, il cielo li benedica. In ciascuna di queste due parti opposte, anche quando non ci siano concerti antecedenti, l'uniformità dei voleri crea un concerto istantaneo nelle operazioni. Chi forma poi la massa e quasi il materiale del tumulto è un miscuglio accidentale d'uomini che più o meno per gradazioni indefinite tengono dell'uno e dell'altro estremo. Un po' riscaldati, un po' furbi, un po' inclinati a una certa giustizia come l'intendo loro, un po' vogliosi di vederne qualcheduna grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare, secondo che si presenti l'occasione di provar con pienezza l'uno o l'altro sentimento, avidi ogni momento di sapere, di credere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualcheduno o d'urlargli dietro. Viva e moia sono le parole che mandan fuori più volentieri. E chi è riuscito a persuaderli che un tale non meriti d'essere squartato, non ha bisogno di spender più parole per convincerli che sia degno d'essere portato in trionfo. Attori, spettatori, strumenti, ostacoli, secondo il vento, pronti anche a star zitti quando non sentan più grida da ripetere, a finirla, quando manchino gli istigatori, a sbandarsi quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto «andiamo» e a tornarsene a casa domandandosi l'un con l'altro cos'è stato. Siccome però questa massa, avendo la maggior forza, la può dare a chi vuole, così ognuna delle due parti attive usa ogni arte per tirarla dalla sua, per impadronirsene. Sono quasi due anime nemiche che combattono per entrare in quel corpaccio e farlo muovere. Fanno a chi saprà sparger le voci più atte, a eccitare le passioni, a dirigere i movimenti a favore dell'uno o dell'altro intento, a chi saprà più a proposito trovare le nuove che riaccendano gli sdegni o li affievoliscano, risveglino le speranze o i terrori, a chi saprà trovare il grido che, ripetuto dai più e più forte, esprima, attesti e crei nello stesso tempo il voto della pluralità per l'una o per l'altra parte. Tutta questa chiacchierata si è fatta per venire a dire che nella lotta tra le due parti che si contendevano il voto della gente affollata alla casa del vicario, l'apparizione d'Antonio Ferrer diede quasi in un momento un gran vantaggio alla parte degli umani, la quale era manifestamente al di sotto e, un po' più che quel soccorso fosse tardato, non avrebbe avuto più né forza né motivo di combattere. L'uomo era gradito alla moltitudine per quella tariffa di sua invenzione così favorevole a compratori e per quel suo eroico star duro contro ogni ragionamento in contrario. Gli animi già propensi erano ora ancor più innamorati dalla fiducia animosa del vecchio che senza guardie e senza apparato veniva così a trovare, ad affrontare una moltitudine irritata e procellosa. Faceva poi un effetto mirabile il sentire che veniva a condurre in prigione il vicario. Così il furore contro costui, che si sarebbe scatenato peggio chi l'avesse preso con le brusche e non gli avesse voluto concedere nulla, ora, con quella promessa di soddisfazione, con quell'osso in bocca, s'acquietava un poco e dava luogo agli altri opposti sentimenti che sorgevano in una gran parte degli animi. I partigiani della pace ripresero fiato. secondavano Ferrer in 100 maniere, quelli che si trovavano vicini a lui eccitando e riecitando con loro il pubblico applauso e cercando insieme di far ritirare la gente per aprire il passo alla carrozza, gli altri applaudendo, ripetendo e facendo passare le sue parole o quelle che a loro parevano le migliori che potesse dire, dando sulla voce ai furiosi ostinati e rivolgendo contro di loro la nuova passione della mobile adunanza. Chi è che non vuole che si dica viva Ferrer? Tu non vorresti, che il pane fosse a buon mercato? Sono birboni che non vogliono una giustizia da cristiani e c'è di quelli che schiamazzano più degli altri per far scappare il vicario. In prigione il vicario, viva Ferrer, largo a Ferrer! E crescendo sempre più, quelli che parlavano così, s'andava a proporzione abbassando la baldanza della parte contraria, di maniera che i primi dal predicare vennero anche a dar sulle mani a quelli che diroccavano ancora, a cacciarli indietro, a levar loro dall'unghie gli ordigni. Questi fremevano, minacciavano anche, cercavano di rifarsi, ma la causa del sangue era perduta. Il grido che predominava era «Prigione! Giustizia! Ferrer!» Dopo un po' di dibattimento, coloro furono respinti. Gli altri si impadronirono della porta e per tenerla difesa da nuovi assalti e per prepararvi l'adito a Ferrer e alcuno di essi mandando dentro una voce a quelli di casa, fessure non ne mancava, gli avvisò che arrivava soccorso e che facessero star pronto il vicario per andar subito in prigione. Avete inteso? È quel Ferrer che aiuta a far le gride? Domandò ad un nuovo vicino il nostro Renzo, che si rammentò del vidit Ferrer che il dottore gli aveva gridato all'orecchio facendoglielo vedere in fondo di quella tale. «Già, il gran cancelliere», gli fu risposto. «È un galantuomo, non è vero? E come se è un galantuomo? È quello che aveva messo il pane a buon mercato e gli altri non han voluto e ora viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le cose giuste». Non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer. Volle andargli incontro addirittura. La cosa non era facile, ma con certe sue spinte e gomitate da alpigiano riuscì a farsi largo e a arrivare in prima fila, proprio di fianco alla carrozza. Era questa già un po' inoltrata nella folla. E in quel momento stava ferma per uno di quegli incagli inevitabili e frequenti in un'andata di quella sorte. Il vecchio Ferrer presentava ora all'uno, ora all'altro sportello un viso tutto umile, tutto ridente, tutto amoroso. Un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse alla presenza di Don Filippo IV. Ma fu costretto a spenderlo anche in questa occasione. Parlava anche, ma il chiasso e il ronzio di tante voci, gli evviva stessi che si facevano a lui, lasciavano ben poco e a ben pochi sentir le sue parole. S'aiutava dunque coi gesti, ora mettendo la punta delle mani sulle labbra a prendere un bacio che le mani, separandosi subito, distribuivano a destra e a sinistra in ringraziamento alla pubblica benevolenza, ora stendendole e muovendole lentamente fuor d'uno sportello per chiedere un po' di luogo, ora abbassandole garbatamente per chiedere un po' di silenzio. Quando ne aveva ottenuto un poco, i più vicini sentivano e ripetevano le sue parole. «Pane, abbondanza, vengo a far giustizia, un po' di luogo, di grazia!» Sopraffatto poi e come affogato dal fracasso di tante voci, alla vista di tanti visi fitti, di tant'occhi addosso a lui, si tirava indietro un momento, gonfiava le gote, mandava un gran soffio e diceva tra sé «Pormi vida, che de gente!» «Viva Ferrer! Non abbia paura! Lei è un galantuomo! Pane! Pane!» «Sì, pane! Pane!» rispondeva Ferrer. «Abbondanza! Lo prometto io!» e metteva la mano al petto. «Un po' di luogo!» aggiungeva subito. «Vengo per condurlo in prigione, per dargli il giusto castigo che si merita!» e soggiungeva sottovoce. «Si è sculpabile!» Chinandosi poi innanzi verso il cocchiere, gli diceva in fretta adelante, Pedro, si puedes. Il cocchiere sorrideva anche lui alla moltitudine, con una grazia affettuosa, come se fosse stato un gran personaggio, e con un garbo ineffabile dimenava adagio la frusta, a destra e a sinistra, per chiedere agli incomodi vicini che si ristringessero e si ritirassero un poco. «Di grazia», diceva anche lui, «signori miei, un po' di luogo, un pochino, appena appena da poter passare». Intanto i benevoli più attivi s'adopravano a far fare il luogo chiesto così gentilmente. Alcuni davanti ai cavalli facevano ritirare le persone con buone parole, con un mettere le mani sui petti, con certe spinte soavi. «In là, via, un po' di luogo, signori!» Alcuni facevano lo stesso delle due parti della carrozza perché potesse passare senza arrotar piedi né ammaccar mostacci, che, oltre il male delle persone, sarebbe stato porre a un gran repentaglio l'auge d'Antonio Ferrer. Renzo, dopo essere stato qualche momento a vagheggiare quella decorosa vecchiezza, conturbata un po' dall'angustia, aggravata dalla fatica, ma animata dalla sollecitudine, abbellita per dir così dalla speranza di togliere un uomo alle angosce mortali, Renzo, dico, mise da parte ogni pensiero d'andarsene e si risolvette d'aiutare Ferrer e di non abbandonarlo finché non fosse ottenuto l'intento. Detto fatto, si mise con gli altri a far largo e non era certo dei meno attivi. Il largo si fece. «Venite pure avanti», diceva più d'uno al cocchiere, ritirandosi o andando a fargli un po' di strada più innanzi. «Adelante, presto, con giudizio», gli disse anche il padrone. E la carrozza si mosse. Ferrer, in mezzo ai saluti che scialacquava al pubblico in massa, ne faceva certi particolari di ringraziamento, con un sorriso di intelligenza, a quelli che vedeva adoprarsi per lui, e di questi sorrisi ne toccò più d'uno a Renzo, il quale, per verità, se li meritava, e serviva in quel giorno il gran cancelliere meglio che non avrebbe potuto fare il più bravo dei suoi segretari. Al giovane montanaro, invaghito di quella buona grazia, pareva quasi d'aver fatto amicizia con Antonio Ferrer. Quella carrozza, una volta incamminata, seguitò poi più o meno adagio e non senza qualche altra fermatina. Il tragitto non era forse più che un tiro di schioppo, ma riguardo al tempo impiegatovi avrebbe potuto parere un viaggetto anche a chi non avesse avuto la santa fretta di Ferrer. La gente si muoveva davanti e di dietro, a destra, a sinistra della carrozza, a guisa di cavalloni intorno a una nave che avanza nel forte della tempesta. Più acuto, più scordato, più assordante di quello della tempesta era il frastuono. Con botte e risposte, tra le incessanti acclamazioni, tra qualche fremito, anche d'opposizione che si faceva sentire qua e là, ma era subito soffocato, ecco alla fine Ferrer arrivato alla casa per opera principalmente di quei buoni ausiliari. Gli altri, che erano già lì con le medesime buone intenzioni, avevano intanto lavorato a fare e rifare un po' di piazza. Prega, esorta, minaccia, pigia, ripigia, incalza di qua e di là, con quel raddoppiare di voglia e con quel rinnovamento di forze che viene dal vedere vicino il fine desiderato, gli era finalmente riuscito di dividere la calca in due e poi di spingere indietro le due calche, tanto che tra la porta e la carrozza, che vi si fermò davanti, v'era un piccolo spazio vuoto. Renzo, che facendo un po' da battistrada, un po' da scorta, era arrivato con la carrozza, poté collocarsi in una di quelle due frontiere di benevoli che facevano nello stesso tempo ala alla carrozza e argine alle due sponde prementi di popolo. E aiutando a trattenerne una con le poderose sue spalle, si trovò anche in un bel posto per poter vedere. Maddalena Crippa ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.